ragazzi, mi sono fumato il radio. Signore e signori, è con immenso piacere e un pizzico di ardire che annunciamo l'inizio delle trasmissioni. Radio Catrame 19, la radio inusuale. A questa puntata numero uno di Kino Party, cari miei animalacci. Stasera si parlerà, sono le 18.08, di morte di un matematico napoletano. Io vi lascio con un secondo di Black Paint dei Garmisch Partenkirchen da Netblock volume 5, da blocksonic.com. Mi suona il telefono, devono rispondere, chissà chi è. Uno di Kino Party, programma che parlerà di cinema aggrovigliandolo insieme a libri, visioni, disvisioni, divisioni e disvisioni, non esiste, lo so, ma mi è venuta così. Io ringrazio Hans che è qui accanto a me, al mio fianco, sono solo e conduco questa trasmissionaccia proprio per parlare di cinema, di tutto il cinema possibile, indipendente, digitale, analogico, 35, 16 millimetri, naturalmente, quello che volete voi, basta che siano immagini in movimento. E stasera parliamo di morte di un matematico napoletano. 1992, regia di Mario Martone, scritto dallo stesso Mario Martone insieme a Fabrizia Ramondino. Hans, sfumami un po' la voce sui Garmisch Partenkirchen. Napoletano è un film che mi è piaciuto da sempre. Quando è uscito al cinema sono andato di pomeriggio, poi sono tornato a casa, l'ho detto a alcuni miei amici, ci sono ritornato dopo cena, quindi me lo sono visto due volte. C'avevo 22 anni e c'avevo tante energie, non come adesso che sono qui fermo su una seggiola col culo. E dicevamo di questo film che parla dell'ultima settimana di vita di Renato Caccioppoli, il matematico napoletano del titolo, appunto, che è interpretato magistralmente dalle intermittenze stranianti e dalla filipperia, nel senso di Edoardo De Filippo, nel modo di recitare, ma anche un po' Pinter, anche un po' Teatro dell'Assurdo, molto Livin Theater, che è la sua radice di recitazione. Insomma, da quel genio nato a Firenze, pur trattandosi qui di molti attori napoletani, che risponde al nome di Carlo Cecchi. Lui interpreta Renato Cacciopoli, questo matematico, figlio di un chirurgo napoletano, e la mamma di Cacciopoli, Renato, era Sofia Bakunin, figlia del rivoluzionario russo Mikhail Alexandrovich Bakunin. Lui, isso. Sicuramente un genio della matematica, questo Renato Cacciopoli, ma persona veramente ricca e complessa. Già nel 1931, perché lui era nato a Napoli il 20 gennaio del 1904, sto leggendo su Wikipedia, divenne socio corrispondente dell'Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli, passando a socio ordinario nel 1938. Ecco, questa sua grandissima preparazione in campo scientifico era riequilibrata da delle idee libertarie, forse proprio perché, essendo nipote di Bakunin, di fondo, e da un sano disprezzo verso l'autorità, che lo portò, tra i tanti episodi o tra le tante tenute di onestà, nel 1938, anzi precisamente nel maggio del 1938, tenne un discorso contro Hitler e Mussolini, quando Mussolini stava visitando Napoli, e insieme alla compagna d'allora, Sara Mancuso, fece suonare l'inno francese da un'orchestrina. E dopodiché iniziò a parlare contro il regime fascista e il nazismo proprio in presenza degli agenti della polizia politica fascista. Venne arrestato, era la seconda volta, ma la zia Maria Bakunin, che all'epoca era docente di chimica all'Università di Napoli, riuscì a farlo scarcerare, convincendo l'autorità dell'incapacità di intendere il volere del nipote. Cacciopoli venne così internato, ma continuò gli studi di matematica e a suonare il pianoforte. Ecco, questa è una parte della vita di Renato Cacciopoli che io vi ho così sradicato, senza troppa poesia, da Wikipedia, dove c'è invece molta più poesia, non so se usare questo termine, se sia, come si dice, proprio o meno, però è sicuramente in questo film di cui parliamo oggi, Morte di un matematico napoletano, che ripercorre l'ultima settimana di vita di Renato Cacciopoli, che, possiamo dirlo tranquillamente, non trattandosi di un giallo, o perché magari molti di voi già lo sanno, molti di voi ascoltatori già lo sanno, si suicidò sparandosi un colpo di rivoltella il 9 maggio 1959. Noi andremo a sentire adesso degli estratti da questo film di Mario Martone. Il film inizia con un muro sbrecciato di una stazione in cui Renato Cacciopoli, Carlo Cecchi, è sdraiato, diciamo, si è seduto nella sala di aspetto di una stazione a Roma di notte tardissimo, quasi la mattina. E arrivano degli agenti a controllare e lo riportano a casa a Napoli. Lo riportano a casa a Napoli, e questo è l'inizio del film. Vediamo già la recitazione, diciamo così, ellittica di Carlo Cecchi, come si veste, vestito per tutto il film, trattandosi di una settimana, nella stessa maniera, con questo trench abbastanza stropicciato, pantaloni neri abbastanza non troppo lunghi, appena quel 2 centimetri corti che fa, diciamo così, zeppa di follia. E inizia così il film, con questo muro sbrecciato, l'inquadratura di questo muro sbrecciato, e poi ci si accorge che sei dentro questa stazione a Roma. Viene riportato a casa Cacciopoli, perché si vede che era andato a Roma chissà per quale motivo, sbronzo, forse era salito sul treno o meno, e il fratello, che fa il magistrato, magistralmente anche questo interpretato da Renato Carpentieri, è solo il primo di una lunga serie di attori di provenienza del teatro napoletano, comunque di attori di teatri uniti. Ne parleremo ancora perché ci sono molte clip del film in cui li sentirete dialogare tra loro. E questa prima clip del film, che adesso Hans molto gentilmente mi va a preparare, è all'inizio, quando lui è ritornato appena a casa, l'hanno riportato a casa dopo questa nottata passata nella sala d'aspetto della stazione di Roma. Arriva suo fratello, il magistrato, che dice, non il magistrato, giudice, che si è appena sposato con... vi sto anticipando troppo, io direi che a questo punto qui posso lasciarvi la voce direttamente di Renato Carpentieri e di Carlo Cecchi, che se la giocano molto, molto, molto, molto meglio di me. Te che dici, Hans? Si può fare. Allora, Hans stasera avrà un compito abbastanza tosto, perché dovrà mettermi le clip giuste. E me l'ha messa la prima, mi sa. Vai, Hans. Lilia non si è dispiaciuta che l'hai abbandonata il primo mattino? Si era appena addormentata quando sono uscito. Ha passato una brutta notte. Non è abituata come me. Io è una vita che ti faccio da fratello grande. Perché ti senti piccolo? No. Ma adesso mi sento un po' più giovane di qualche anno fa. Se la fammo. Renato, dopo la notte così potresti evitare di bere. Sto bene. Vabbè. Dammi un goccio pure a me, va? Bevi. Così in tribunale assolvi il ladro e condanni il pollo. No, oggi non lavoro. Sono ancora in licenza matrimoniale. Luigi, i libri li avete già messi via? No, non ancora. Anzi, a proposito, potresti tenerne qualcuno per ricordo, ce ne sono di bellissimi. Ci sono i libri russi della mamma. C'è tutto Croce. Volevo sapere se c'era qualche libro di Herzen. E chi è Herzen? Un amico del nonno. Ah, sì, me lo ricordo. Quel suo collega tedesco che veniva sempre con le due figlie appresso. No, l'altro nonno. Ma perché adesso Bakunin non è più nostro nonno? Ecco che cosa ti volevo dire. Ho trovato le carte di Bakunin. Davvero? Fatta la tradurre da zia Maria. Non ci vai mai, magari sarà pure dispiaciuto. Passerò. Bisognerà salutare anche lei. Diciamo subito che Renato Caccioppoli beveva come le bestie, almeno in quest'ultima settimana della sua vita beveva veramente come le bestie. Se guardate il film vi viene voglia di bere triste anche, però viene voglia di bere. Questo si faceva il whisky appena alzato, dopo una notte tosta, molto molto tosta. Quindi avete sentito questa prima clip in cui il fratello giudice cerca di tenere un po' a bada o a freno le stranezze etiliche del fratello, lui che è più vecchio di lui, dice: sono stanco di farti, vorrei farti magari il fratello più piccolo, perché se vuol sentire più giovane, perché si è appena sposato con un'attrice interpretata da Licia Maglietta. Renato Caccioppoli era insegnante all'università, e l'università in quei tempi lì mi sa che era abbastanza tosta come rapporto tra docenti e discenti e alunni, nel senso che c'era la baronia, era normale, nel senso questi ti trattavano di merda, diciamolo tranquillamente, ti trattavano veramente di merda. C'è una scena qui che è abbastanza paradigmatica, qui per cui intendo nel film, e di quando stanno ridando i libretti dopo gli esami, che si vede che li davano i libretti tutti insieme, c'è questa classe schierata. Se vi capita di vedere il film, anzi, questo è il consiglio di fondo di tutta la sera, il film dovete guardarlo, se no questa trasmissione che esiste a fare, ecco. E c'è comunque quest'aula di studenti tutta schierata, i professori dietro la cattedra, la sala è fatta quasi a emiciclo, no? Comunque i ragazzi sono sulle scalinate, così come erano tante università prima, tipo teatro anatomico quasi, e stanno ridando i libretti. E a un certo punto vi faccio sentire, non prima però di aver salutato il nostro Max, che ci ha telefonato dicendoci che ci ascoltava. Non lo salutiamo e ne approfittiamo molto molto molto volentieri per dire che stasera alle 8, se non sbaglio, poi Max mi correggerà, però io adesso vado subito a controllare sul palinsesto provvisorio di Radio Catrame, alle 8 parte il programma di Max che si chiama La Terza Torre, direttamente da Bologna. Noi vi consigliamo, anzi vi obblighiamo ad ascoltarlo, perché sarà molto molto molto interessante. Noi continuiamo nella nostra esplorazione di questo film e adesso vi faccio sentire l'ambiente universitario nel 1959 e vi faccio sentire anche la differenza dopo, mentre Night Song di Mike Link e Harvey Taylor da Net Block Volume 5 mi accompagna. Vi farò vedere, sentire la differenza con invece l'ambiente di una lezione di Cacciopoli, cioè come gli studenti invece da lui si sentano molto più tranquilli, si sentono anche di fargli delle domande fuori dai, diciamo così, dalla lezione corrente. Io adesso sento che Hans mi ha tolto tutta la musica di sottofondo, questo sta a significare una cosa, e cioè che mi sta preparando la seconda clip, quella che gli stavo dicendo adesso. Caro Hans, mi sa che stasera sei abbastanza preciso, finché non bevi sei abbastanza preciso. Poi dopo è un po' un casino, Hans, è abbastanza un casino. Vai Hans, fammi sentire. Ci siamo quasi, sì. Allora, adesso vi faccio sentire la consegna dei libretti, fatti prima dal professore Barone, e poi invece una lezione di Cacciopoli, sentite? Questa è la quarta volta. Manna, 18, non si avvicini. Non mi contamini con la sua ignoranza. Avete sentito? Poi diceva, vabbè, doveva scoppiare 68 appena, nemmeno 10 anni dopo. Come faceva? Questo ti ridava il libretto, glielo butta, se vedrete il film, proprio non lo fa avvicinare, ma gli butta il libretto per terra, davanti a tutti, eh. Non è che dentro la stanza ci sono soltanto loro due, è un'aula delle lezioni, ci sono tutti, lui butta il libretto, quindi non mi contamini con la signoranza, lei ha preso 18. È pazzesco, veramente pazzesco. Invece, adesso sentiamo un pezzetto della lezione di Cacciopoli. Ecco, Cacciopoli invece ha tutto un altro modo assolutamente di trattare con gli alunni, anche se poi vedrete ci sono delle scene abbastanza, c'è una scena in particolare in cui si vede che comunque lui non è un buono, non è assolutamente un buono, anzi è uno che ti fa girare anche le palle, però non vi anticipo niente. Intanto sentitevi questa parte qua, Enzo è quasi pronto a mandarmela, eh? Mi dice che ci mancano appena 10 secondi, allora sentite, durante una lezione di Cacciopoli un ragazzo chiede di fare una domanda. È finito il gesso, qualcuno chiami all'occhio per cortesia. Professore, posso farle una domanda non pertinente alla lezione? Certo, di. Secondo lei, perché Einstein si è opposto alla teoria dei quanti? Perché secondo Einstein Dio non gioca a dadi. E poi vedi, il mondo delle verità fisiche, come di quelle matematiche, è chiuso come una sfera. Ogni nuova visione, se è profonda, è una fuga da questa specie di prigione. Si possono avere delle resistenze a fuggire. Oppure non se ne può vedere proprio la ragione. Messo per voi, professore, anche due cassini. Mi raccomando, professor Lauretano, non li lasciate in aula. Mettete la villa in da borsa. E quei cassini spariscono come l'oro di Dongo. Thank you. Avete sentito la differenza che c'è tra i due? Cioè, uno è veramente molto più libertario, molto, molto più libertario. Gli altri sono delle vere merde, in assoluto. E mi sono accorto che abbiamo iniziato la trasmissione e io ancora non vi ho messo una canzone dall'inizio alla fine. Voi avete sentito all'inizio la sigla di apertura. La sigla di apertura che è stata Over the Rainbow, rifatta da Piero Risma Angelini. Io lo ringrazio ancora per aver rifatto il remake, fatto la cover di questo classico, e che farà da sigla d'apertura a tutte le puntate di Kino Party. Voi siete su Catrame 19, questi in sottofondo sono i... questo è strano, perché ho letto l'istruzione, è strano. David Bowman, scritto tutto attaccato, e la canzone è Verfolger. Comunque, voi, se volete saperne di più, poi troverete i link sul sito di Radio Catrame 19, andate su blogsonic.com. Questa è Netblock volume 5, The Threat at Golia's Feet, la minaccia ai piedi di Golia, così come la musica Creative Commons. E io ve la faccio sentire, l'ultimo minuto la faccio sentire tutta sta canzone qua, dai! Intanto Hans stappa una birra. Di stapparne una ve la fa sentire, perché lui c'ha anche una serie di effetti, una libreria di effetti che si porta dietro dentro le sue valigine. Ora io Enzi gli rubo un po' di Golden Virginia, così si fa anche pubblicità, e mi faccio una sigaretta. Allora, dobbiamo parlare anche di Napoli, perché gli ultimi 7 giorni di questo film sono tutti ambientati a Napoli, nella Napoli di Renato Caccioppoli, appunto. C'è questa Napoli gialla, c'è una fotografia molto molto bella. Io volevo parlare un po' della fotografia. Avevo ritrovato anche un articolo, una conversazione di Mario Martone con Bruno Roberti su un film critica 424 del 1992. Cioè, io quando avevo 22 anni mi compravo un film critica, ma ragazzi, non potevo scopare di più. Compravo film critica e mi leggevo a cura di Bruno Roberti Conversazione con Mario Martone, e mi ci facevo delle... però ci godevo tanto, no? E invece ci voleva un po' più di sciacattamento. Comunque, bando alle ciance intimiste che ci vogliono sempre un po' nella radio, così vi faccio sentire anche partecipe dei miei sentimenti contemporanei. Io volevo farvi sentire una canzone, però dall'inizio alla fine, fatta bene, non come Hans che mi mixa tutto, mi spacca la voce, poi andiamo avanti con il film. Però a proposito di Napoli, proprio a proposito di Napoli, e poi parleremo anche della fotografia di questa Napoli, Luca Bigazzi, diciamo tutti i credit a modo, fotografia di Morte di un matematico napoletano è di Luca Bigazzi, così vi facciamo anche un po' di trivial, E volevo farvi sentire una canzone degli Alma Megretta del 1991, quindi un anno prima che uscisse questo film. Una musica che è open source, audio open source, insomma, la trovate anche su archive.org. Una canzone abbastanza famosa degli Alma Megretta, almeno io la conoscevo. Questa è una versione un po' più raw e sta su archive.org, potete scaricarla liberamente e sentirvela. Per ora ve la facciamo sentire noi. Si chiama O Buono e O Malamente. Io sono Yalma Megretta, e da un demo tape del 1991 io ve la faccio ascoltare tutta. Vero Hans? Io sì. No, fa dei segni Hans incomprensibili. Vabbè, Alma Megretta, O Buono e O Malamente. cammino. Alma mia cresta è qui l'imperatore, vi parla da vicino. Ma voglio disormiezza a questa gente, chi ho buone e chi ho malamente. Pensate se buone e tenete la mente, chi ho buone e chi ho malamente. Niente tribunale, niente di universale, il mio è soltanto un giudizio personale. Niente tribunale, niente di universale, il mio è soltanto un giudizio personale. Ma voi che ricce tenete la mente, a chi è buone e chi ho malamente. Pensate se buone e tenete la mente, chi è buone e chi ho malamente. C'è sta chi fa un camerano che a Ferrari e chi tutta giornata si può zangamare. Sono nato e sono cresciuto in tasco quartiere, a chi non ha raggio e chi ne pensiera. C'è sta chi fatica la mattina e sera, e chi ha roba e chi spaccia e chi si fa una pera. Ora e ora non sono la televisione, a pensare che non si ama, si non viene mai chi non. Tu stai zitto e piensa come un pure si fa, per andare in da sacca e non c'è sta. Sono chiuda camminando, sono chiuda camminando, e oggi visto che non ci stanno. Niente di strano si passa sulla mattina e mi metto a vendere l'eroina. Sono morte sparate quattro criminali. Pensate se buona, tenete la mente, chi è un buon e chi è un malamente. Pensate se buona, tenete la mente, chi è un buon e chi è un malamente. Niente tribunale, niente di universale, il mio è soltanto un giudizio personale. Niente tribunale, niente di universale, il mio è soltanto un giudizio personale. Pensate se buona, tenete la mente, chi è un buon e chi è un malamente. Finse c'è buona, tenete la mente, chi è un buon. Radio Cacrame 19, la radio inusuale. E avete sentito anche Yalma Megretta con un buono e un malamente? Dovevamo farlo questo omaggio a Napoli. Ne sentiremo ancora durante questa puntata, sentiremo anche sicuramente un'altra canzone degli Alma Megretta, sempre di quelle scaricabili da archive.org. Voi andate lì, cercate Alma Megretta nella sezione sound e vi viene fuori questo demo tape del 91, che è esattamente un anno prima del film del 92 di cui stiamo parlando oggi pomeriggio. Sono le 18:36 almeno all'orologio del mio Mac. stiamo parlando di Morte di un matematico napoletano di Mario Martone. Abbiamo già ascoltato alcune clip, abbiamo salutato Max, che purtroppo non avevo seguito in chat perché ho due computer diversi, quindi su uno ci tengo la chat e sull'altro ci tengo la radio. Non seguivo quello della chat, mi scuso con Max, e comunque adesso ci sono. Dico anche a voi, chi volesse contattarci può chiamarci sia su Skype, cercando su tra gli utenti di Skype Catrame19, aggiungendoci alla propria lista contatti, o altrimenti potete entrare in chat e parlare con noi. C'è sempre anche la possibilità della, come si dice, della semplice mail a famiglia@catrame19.it, ripeto, famiglia@catrame19.it. Quelle che sentite in sottofondo sono Rob Hunter con Four, sempre tratto da NetBlock volume 5, da, scaricabile da blocksonic.com. E allora, se siete sul sito di Radio Catrame 19, volevo dirvi anche questa cosa, facciamo un po' di informazione, di meta-informazione, di meta-radio, perché il sito di Radio Catrame 19 è in restyling, adesso lo vedete nella veste grafica consueta, qui siete abituati a vedere da un anno a questa parte, ma ci saranno dei grossi cambiamenti già dalla prossima settimana. Una prima bozza grafica di home page già pronta, le sapienti bravomiche mani si metteranno a strumentare, a mastriare sul PHP di WordPress, e per la prossima settimana, per il prossimo giovedì, avremo il sito pronto e nuovo, con tante belle cosine, e magari ci mettiamo anche una newsletter, di modo che quando abbiamo da avvertirvi di una trasmissione straordinaria o ordinaria durante tutta la settimana, abbiamo uno strumento a disposizione che impesti le vostre caselle postali. Allora, abbiamo sentito queste clip, si riferivano alla vita di Renato Caccioppoli, abbiamo sentito la clip in cui lui beve di mattina, io l'ho chiamato, siccome mi sono fatto i blocchi adesso per questa trasmissione, bisogna farsi i blocchi, no? Uno ci mette tanto, cioè spende anche dei soldi dallo psicanalista, non io perché non c'ho un quattrino, però per togliersi i blocchi, invece noi dobbiamo farci i blocchi per poter fare meglio la nostra trasmissioncina radio. Allora, il primo blocco l'avevo chiamato Bere appena sveglio, ed era la clip in cui avete sentito, gli dice Sagesso Bridge, dice Carlo Cecchi, Renato Caccioppoli al fratello magistrato, bevo io anche per te, c'è una serie di aforismi o comunque di frasi che, cioè, quando avevo 22 anni mi ci sono fatto molto male con queste frasi qui. Ce n'è una in particolare che ci crediate o no, io ho scritto su un foglietto con il DOS, c'era ancora, l'ho stampata e l'ho appesa nella soffitta dove tenevo tutti i libri. Non vi svelo qual è la frase perché poi magari ce la facciamo a sentirla. Sono le 18:39, quindi ancora abbiamo una ventina di minuti, mi dice Hans, mi fa Hans oggi c'ha dei capelli paurosi, faccio una nota di colore prima di andare avanti nel film, molto punk, bravo, sì, continuiamo così con la Jerry. E allora, volevo farvi sentire un altro dialogo, questo film è bellissimo anche perché c'è uno stuolo, un cast di attori veramente tosti, veramente, veramente tosti, da Carlo Cecchi, che secondo me è un grandissimo, uno dei più grandi attori esistenti, forse il miglior attore italiano, se stiamo a dire queste cose, no? Visto che ogni tanto le dicono. Poi c'è Tony Servillo, altro grandissimo, che fa Pietro, uno degli allievi di Caccioppoli. Poi c'è Licia Maglietta, bravissima anche lei. Ora dico bravissimi di tutti, comunque sono veramente, veramente, veramente bravi. C'è anche Andrea Renzi, che avete visto nell'Uomo in Più, insieme anche a lui, a Tony Servillo. C'è Lucio Amelio, c'è Roberto De Francesco. Ci sono Antonino Iuorio, che poi rivedrete in La Verifica Incerta, il verificatore di Stefano Incerti, scusate il miscuglio con un altro film di Alberto Griffi che evoca sempre Enrico Ghezzi. Invece le malattie di 22 anni si portano avanti e continuano ancora imperterrite anche quando se ne hanno quasi 38. Ecco, questo è un film che mi ha plagiato. La gioventù finisce con un suicidio, come si è detto all'inizio, quindi io non l'ho fatto forse anche per esorcizzarlo un po' questa cosa. D'altra parte Camus diceva che l'unica riflessione seria e vera che si può fare in filosofia è quella sul suicidio. E dopo sta cosa, vado a toccarmi le parti basse e vi lascio con un po' di Robunter mentre Hans mi prepara questa clip tra in cui ci sono Carlo Cecchi e Licia Maglietta, nel film sono Renato Cacciopoli e la cognata, perché ha sposato il magistrato di cui abbiamo parlato fino ad adesso. I due ci hanno avuto anche una storiella prima che i due si sposassero, e adesso sentite, si parla di assistenti donna che non ci sono, non c'erano almeno nella facoltà di Napoli a quel tempo. Io vi alzo un po' la musica, Hans, quando ti dico di alzo un po' la musica significa che la devi alzare te, non che la devo alzare io. Leggermente, pochino a questa clip. Siamo nella casa di famiglia dei Cacciopoli, non un palazzo Cellammare di cui parleremo dopo, dove abitava proprio Cacciopoli, la famiglia Cacciopoli, quindi dove abitava il babbo Giuseppe e la madre Sofia, e la stanno sgombrando perché si vede stanno andando via, quindi si stanno dividendo le cose. La mattina Renato Cacciopoli va lì senza nemmeno avvertire nessuno e lo braccano, il magistrato, suo fratello, e lo braccano, lo trovano lì, lui se ne andrebbe anche via, però dicono, dai, vieni su, vieni a scegliere qualcosa, portati via un quadro, qualche libro, e lui invece lì vorrebbe soltanto questi fogli di Bakunin che sono stati ritrovati e che lui ritrova. A un certo punto il magistrato, Renato Carpentieri, li lascia soli, cioè lascia soli la moglie e Carlo Cecchi, non succede nulla di pruriginoso, non pensate al solito male, non siamo in una puntata di Desperate Housewives, e i due si scambiano qualche battuta. La cosa che c'è stata prima, ve lo dico, altrimenti non capite, è che Carpentieri, cioè il fratello di Cacciopoli, ha detto a Renato, ho dato a mia moglie l'anello di mamma, se a te sta bene. Se lui dice, ma sì, che vuoi che me li metta io, prendi tutto e le ti pare, no? E il dialogo inizia così. Ora Hans mi ci porta direttamente al minuto 20 e secondi 10, perché abbiamo temporizzato tutto, cioè abbiamo fatto le cosine per bene, che abbiamo fatto sì alla cazzo di cane, e ci siamo quasi, mancano quasi 10 secondi. Io faccio un tiro di sigaretta così sentite anche l'effetto fumo che esce fuori, adesso ve li faccio sentire. Pronti, vai! Hai visto quanti cartoni ti ho fatto trovare? Dovrai farlo stringere l'anello, mamma aveva un anulare da badessa. Basta mettere sotto la fede. So che avete incontrato Filippa a Parigi, come sta? Sta bene, mi ha fatto piacere vederlo Filippa. E poi c'era qualcosa da chiarire con lui. Cioè? Quando venne a Napoli aveva capito che io e te andavamo a letto insieme. E cosa c'era da chiarire? Non era vero? Filippo mi ha fatto conoscere i suoi assistenti. C'è anche una donna, sai? Anch'io una mezza donna come assistente. Insomma, porta la gonna. A Napoli non c'è un assistente donna in tutta la facoltà. Emilia, io non ti ho mai promesso né un posto di assistente né un posto di moglie, come dire, morganatica. Poi tu ne hai avuti altri, amori, no? Tu invece? Tu hai fatto finta di separarti da tua moglie. Cosa credi di avere più da quella donna? Lei se n'è andata per davvero. Appunto. Ma è possibile che non capisci? Ma che cosa c'è da capire? Nemmeno ora. Attenzione! In diretta su Radio Catrame 19. In diretta su Radio Catrame 19. Dunque avete sentito il dialogo tra Licia Maglietta e Renato Cacciopoli e Carlo Cecchi. Lui ha avuto una storia con lei, Tombeur de Femme sembrerebbe da quest'ultima settimana, o comunque no, non è un Tombeur de Femme, è veramente personaggio molto complesso, molto sensibile, duro anche, molto duro, una contraddizione in termini, bellissima, sì, recitazione sincopata di Carlo Cecchi, ma che me le fate fare a fare queste cose qui a me, che questo è il miglior film che c'è. No, dai, riprendiamoci un po' e in sottofondo sentite International Calling, Calling dei Norma, sempre dal Netblock volume 5, e è stato evocato in questo dialogo anche la moglie di Renato Cacioppoli, interpretata, che si chiama Anna, è interpretata qui da Anna Bonaiuto, bravissima anche lei, poi la ritroveremo in altri film di Martone come L'amore molesto, sembra anche teatro di guerra, però non so, teatri di guerra però non sono sicuro, mentre Tony Servillo c'era ancora con teatri di guerra insieme a Mario Martone. Allora, a parte questa filmografia che vi trasversale che sto cercando di fare, come fanno Hollywood Party, e tra un po' inizia anche Hollywood Party, bello, finiamo noi, inizia Hollywood Party, beh, a traino nostro, volevo farvi sentire un'altra canzone degli Alma Megretta, una canzone molto conosciuta che si chiama Madre Terra. In questo demo del 91 c'è anche questa versione primordiale di Madre Terra. Io ve la faccio sentire, anzi è Enz che ve la fa sentire, e poi proseguiamo con Morte di un matematico napoletano. Vai Enz, Madre Terra, Alma Megretta, su Radio Catrame 19. E non va. Adesso va. Tienimi con te, con te. questo ed altro su Radio Catrame 19. Noi ci abbiamo verso la fine di questa trasmissione, di questa prima puntata di Kino Party, dove abbiamo parlato di morte di un matematico napoletano, vi abbiamo fatto sentire degli estratti, volevamo leggervi altre cose. Significa che continueremo nella prossima, eh? Non è detto che ogni puntata sia monografica rispetto ad un singolo film, possiamo intrecciarne anche altri. Allora diciamo che nella prossima puntata facciamo di intrecciare il finale di Morte di un matematico napoletano, creiamo un fade virtuale, una transizione virtuale con un altro film che analizzeremo. E Hans mi ha messo in sottofondo ancora Black Paint dei Garmisch-Partenkirchen. Facciamo sentire la ringale quando dici Partenkirchen, perfetto. E lezioni di tedesco, cazzo, costa un bordello di soldi. E volevo farvi sentire una clip che secondo me è da urlo. Quando vi parlavo prima di quella frase che avevo isolato e avevo attaccato nella mia soffittina dove tenevo i libri, e ci tenevo anche questo, l'avevo incorniciato proprio questa frase, perché ve la dovete stampare nel cervello, e vi dovete stampare nel cervello anche questo dialogo tra Tony Servillo, che fa Pietro nel film di Mario Martone, fa un allievo di Renato Cacioppoli, quindi è il dialogo tra Pietro e Renato Cacioppoli nella casa di Palazzo Cellammare. Palazzo Cellammare sta in via Chiaia, una zona di Napoli. Dobbiamo parlare anche della fotografia, come facciamo? Ne parliamo la prossima volta. Un'ora ci sta stretta, però alle 7 dobbiamo staccare, vi metteremo una playlist. Ritornando a noi, faccio sentire questa clip in cui Pietro va a trovare Renato Cacioppoli e gli porta un lavoro di matematica che aveva dato a Renato, diciamo così, Pietro aveva dato un lavoro di matematica e gli aveva detto di riguardarglielo, perché naturalmente Cacioppoli era una testa immensa anche per la matematica, e a un certo punto, parlando di matematica così, vanno a parlare di tutt'altro, come era bellissimo fare, doveva essere stato stupendo assistere a una lezione di Cacioppoli, non tanto quelle ultime in cui forse beveva un po' troppo, lui andava in giro con una fiaschetta. C'è questo suo peregrinare per i vicoli di Napoli. Il film è bellissimo, è proprio un camminamento in questa settimana a piedi di lui che si gira i vicoli di Napoli, e quindi in questo peregrinare tra queste viuzze magari ogni tanto si ferma, scrive una formula attaccata a un muro, cioè spiccicando un manifesto da un muro. È veramente bello, si ferma da una signora e dice: Donna Teresa, questi soldi qua spendeteli per voi, non per i vostri nipoti, lascia i caffè in sospeso, ma tutto con una non alterigia, con una umiltà di fondo che è veramente, veramente resa da Carlo Cecchi poi in una maniera mostruosa, cioè veramente forte. E io volevo farvi sentire questo dialogo fra Tony Servillo e Carlo Cecchi, parliamo di attori adesso perché le voci sono fantastiche, e Hans mi deve portare però naturalmente al punto giusto di ebollizione, cioè al punto giusto del film. So che lui è molto bravo, abbiamo sincronizzato tutto oggi, e quindi dovrebbe portarmi al minuto 27, dal minuto 27 dovrebbe partire. Quindi io vi lascio a questa ennesima clip di Morte di un matematico napoletano. Ma hai rivisto tutto? Tu non ci hai messo niente. Ma io ci avevo perso tanto di quel tempo. È meglio non amare troppo la matematica. È lei piuttosto che deve amarti. Sarebbe più giusto dire che l'hai rifatto completamente. Sì, ma solo per egoismo. Lo so, avrei dovuto sottolineare i passaggi sbagliati e farti arrivare da solo alla soluzione. Ma ci voleva troppo tempo. Tu poi non hai fretta. So che stai per sposarti. Sembra che oggi i matrimoni siano coperti dal segreto istruttorio. Neanche Luigi mi aveva detto nulla del suo. Mi è rimasto solo il tè. Posso offrirti del whisky? Lo sai che la mattina non bevo. Sagesse oblige. Bevo io anche per te. Perché hai detto a Stella di non sposarmi? Non ho detto a Stella di non sposarti. Le ho detto di non sposarsi, tutto qui. Ah, poi ti sorprendi che non ti ho detto niente del matrimonio? Ma di che hai paura? Io a te ormai non devo dire più niente. Sei uscito dal partito, hai avuto l'incarico e ora che stai per avere la cattedra vuoi fare la famigliola. Se questo è il futuro. Io sono uscito dal partito. Ma ti sei dimenticato quello che mi dicevi nel 56? Khrushchev ha distrutto Stalin, Stalin ha distrutto Lenin, Lenin chissà quanti altri ancora, Marx, Bakunin. Tu almeno rimanevi in famiglia con tuo nonno. Non c'è più quella famiglia. Anche tu hai vinto un concorso e hai avuto la cattedra. Già sì, mi è successo anche quello. Pure tu hai preso moglie, ma perché non dovrei farlo io? Io glielo dovevo. Anna si era fatta la galera fascista per me. Ma perché menti a te stesso? Tu l'hai sposata perché l'amavi. Anna, poi, non aveva certo difficoltà a trovare chi la proteggesse. Senti, Pietro, io non ho più né tempo né voglia per spiegarti qual è la differenza fra una donna libera, limitatamente, certo, come lo siamo tutti, e una puttana. Ti dovrei sfidare a duello. Eri diverso da ragazzo. È triste assistere agli sforzi che fai per essere come tutti. I will never get a job. I will never be a slob. Shit, and no rainy day. Great, gonna sit in a cafe. Thank God he lay. What a terrible verse. It can't be worse. Your life is deadly dull. No, Jeff, the butter soul. I feel I have to live. Say, positive. Think positive. There's no alternative. Just be positive. Positive. Think positive. Don't be so primitive. Just be positive. Get this car out of my sight. I just love to walk at night. Got this woman so dull. Christ, what a fabulous girl. Girls are made crazy. Give you a break. Give me a slice of cake. Why can't I see a shot at it? Yeah, you did it. Stop being oppressive. Positive. Think positive. There's no alternative. Just be positive. Positive. Think positive. Don't be so primitive. Just be positive. Really what you make it. Don't say me aggressive. Think positive. There's no be positive. Sentito il dialogo fra Tony Servillo e Carlo Cecchi, tra Renato Cacciopoli e Pietro, il suo allievo, e alla fine c'è quella frase, eri diverso dal ragazzo. È triste assistere agli sforzi che fai per essere come tutti. Fantastica, fantastica. Poi subito dopo avete sentito Positive, Positive, noi ci piacciono le contraddizioni, almeno a Enzi piacciono le contraddizioni dei Baichi. Sto pezzo pancheggiante, autoironico, per ristabilire un po' l'equilibrio che si era andato spezzando verso il tragico, ascoltando il dialogo fra i due, sempre da Morte di un matematico napoletano. Non siamo arrivati alla fine e finiamo questa puntata numero uno di Chino Parti facendovi sentire un'ultima clip e omaggiando un attore di cui riparleremo molto volentieri in questa seconda stagione di Radio Catrame 19, che è Antonio Neyville, che purtroppo è morto, non c'è più, non è più con noi, ma che è un grandissimo attore di teatro e anche di cinema. In questo film Il morte di matematico napoletano fa Don Simplicio, l'assistente in gonnella, come avete sentito evocato prima, cioè fa il prete lauretano. E c'è un certo punto sul finale di questa puntata, ma non siamo al finale del film, ci sono Renato Cacciopoli e il suo assistente, quindi Antonio Neyville e Carlo Cecchi, scusatemi, che parlano di Re Salomone, della storia di Re Salomone. Io ve la faccio sentire, non prima però di avervi invitato a continuare ad ascoltare le trasmissioni di Radio Catrame 19, che nel giovedì, lo ricordiamo, vanno in verticale. Il palinsesto si verticalizza e parte da verso le 3:30, le 15:30, se vogliamo essere proprio fiscali anche nelle parole, fino alle 11 passate, perché, lo ricordiamo, dopo di noi alle 8 ci sarà la terza torre di Max, in diretta da Bologna. Alle 9 non so che cosa ci sarà, forse devo riguardare ancora bene il palinsesto, però può darsi che ci sia un'ora di buco, quindi in cui manderemo qualcosa. Dovrebbe esserci Vagin Tonic, però mi sa che la puntata di stasera ancora non è pronta, quindi manderemo forse dalle 8 alle 9 un nastrone, una playlist, come si dice adesso, di musiche. E dopo aver mandato questa forse la stessa playlist di musiche che manderemo anche dalle 19 alle 20, in attesa appunto della terza torre. Io vi ringrazio tutti, ringrazio Enz, che adesso si fionda a un'ora per arrivare a Bologna, dice che c'è un elicottero. È peggio di Mastella, cioè trova gli elicotteri, gli aerei, così, come se fossero funghi. Comunque ha detto che c'è un elicottero qui vicino, degli amici che lo porteranno a Bologna a fare il fonico per la terza torre di Max, che seguiremo dalle 20 in poi, sempre sulle frequenze binarie di Radio Catrame 19. Adesso io chiedo a Enz l'ultimo sforzo, prima di caricare tutte le sue valigine, di portarmi al minutaggio del film Di morte di un matematico napoletano, in cui c'è questo dialogo tra Don Simplicio e Renato Cacciopoli, e si parla di parola e vita, e fa un esempio bellissimo che voi non potete vedere, mi raccomando, vedete il film. A un certo punto, nel finale di questa clip che sentirete, Carlo Cecchi parla di Renato Cacciopoli parla di la parola e la vita, quindi la parola la paragona alla mano, mentre il pulso alla vita, e dice: provate a prendervi con la stessa mano lo stesso pulso della stessa mano, la sfiora appena ma non l'afferra. Ecco, se Enz mi porta al minuto 36, dovremmo sentire tra loro due questa cosa. Penso che ce la faccia, Enz. Te ce la fai, vero? Ce la fa, sì, dai. Parti 2 secondi dopo, perché Enz giustamente c'ha questo elicottero, però se li fa aspettare magari lo lasciano a piedi, così poi Max dalla terza torre si deve fare il programma per conto suo. L'ha trovato! Ecco, sentiamolo. Cauretano, te la ricordi la storia di Re Salomone? Secondo voi, quando la madre vera dice a Salomone di dare il bambino a quell'altra, lo dice per spirito di sacrificio o perché il bambino viva? Perché il bambino viva. Siete voi che parlate sempre di spirito di sacrificio. Non io. Sapete che non sono sempre d'accordo. Penso che anche Cristo non muoia per spirito di sacrificio, ma perché la parola viva. Passaggio è corretto. Allora perché non vi orientate verso il prossimo, verso la vita? Che volete fare come Giuda, assumere una colpa che è di tutti? Guarda, questa è la parola e questa è la vita. Vedi? La sfiora appena, ma non la afferra. Chinoparty numero 1 finisce qua. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, a tutti quelli che ci seguiranno in podcast. Continuate ad ascoltare Radio Catrame 19. Alle 20 c'è Max con la terza torre. Strelnik vi saluta e vi dà appuntamento prima di tutto alle 22, quando ci sarà Parla come scrivi insieme a Liv e al sociologo, e poi con Chinoparty alla seconda puntata il prossimo giovedì. Ciao a tutti, animalacci e animalacce. Questa è Sara di Misery, sempre da Netblock volume 5. Enz è partito, ciao. Talk to me, but don't say a word.